Ben fatto, avventurieri. Ora siete immuni al canto ammaliante delle sirene. Tuttavia, resta ancora un compito. Dovete scacciarle. Mago, forse nel tuo grimorio si cela un incantesimo adatto. Consulta il tuo libro.